música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Cornuto, signor giudice, ci dica questo Casanova in veste di elettricista, ci dica chi è questo fantomatico amante della moglie, dov'è? Se siete arrivati a questo punto, siete dei terrificanti dilettanti. Questo è un vecchio film del 1953 in cui l'adulterio è un reato, finiva nell'aula del tribunale, film di Steno con Walter Chiari e Silvana Pampanini. E gli anni sono passati, ma tuttora esiste un professionismo nel praticare questa tecnica, esiste un dilettantismo. Questa mattina vorremmo fare radio di servizio. E con questo non prendiamo nessuna posizione, non vogliamo valutare gli aspetti sentimentali, gli aspetti etici, gli aspetti morali, delle derive erotiche rispetto alle coppie normalmente organizzate. Però, dato che l'attività è piuttosto fiorente, anzi, oseremo dire che sono rare le persone che mai nella loro vita siano state lambite dall'occasione, dal desiderio, dalla malandrina occorrenza per cui un attimo si è usciti dalla strada maestra. Quindi vogliamo questa mattina, freddamente, come se vi dessimo delle istruzioni di come, non so, verificare se il vostro impianto elettrico è a norma o verificare se siete in regola con il pagamento delle assicurazioni, vi diciamo quali possono essere delle banalissime, semplicissime, ma importanti regole per uscire dal seminato facendo meno danni possibile. Il numero verde per partecipare, penso che tutti avranno qualcosa da dire, solo istruzioni tecniche, non mi venite a raccontare di uomini traditori, di donne fedifraghe, di fiduce violate, di drammi familiari, non me ne importa nulla. Questa mattina voglio soltanto tecniche, come si fa per fare meno danno possibile. Il numero verde è 800-24-0024, vi aspetto. Oh, ma quello è Fuffi! Fuffi chi? Il mio ambasciatore! Ma quale ambasciatore? Vieni, ti devo dare una brutta notizia. Mi sembra impossibile, allora non solo non è partito, ma non è neppure ambasciatore. Te l'ho detto, non è ambasciatore e soprattutto non è scapolo. Mi dispiace, Gloria, ti sei fidanzata con mio marito. Ma come, hai sposato Fuffi? Non si chiama Fuffi, si chiama Franco. Vogliamo bere qualche cosa? Un altro esempio di dilettantismo terrificante, questo è un altro film, visto ci appoggiamo intanto alla fiction cinematografica, poi spero che riusciremo a attingere da esperienze personali. Potete benissimo dirmi, ho saputo che un mio amico, io capirò e non vi farò altre domande, però aiutate l'umanità questa mattina. In questo caso Nino Manfredi ha compiuto uno degli errori più detestabili in questo caso, è diventato l'amante di un'amica della moglie, a cui non aveva detto naturalmente che gli fosse sposato, e quindi a un certo punto le due donne si sono confidate, l'una il suo specchiato amore coniugale, l'altra la sua passione per un fantomatico Fuffi. È venuto il giorno, ahimè, in cui entrambe le donne sono trovate a confronto con lui, una situazione che nessuno dovrebbe mai incontrare. Quindi una delle prime regole del nomadismo erotico è di andare a scegliere l'oggetto temporaneo, la propria passione, lontano dalla cerchia delle amicizie o delle conoscenze del legittimo partner. Scusa, Patrina, quest'ora dove sei stato? Ma lo sai! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, te lo giuro! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui! Pronto! Voglio sapere tutto, non sono stato io! Chi è questo con cui sei uscito? Non nessuno! Dimmelo! Solo un bacio! Ah! Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Passano gli anni, ma i dilettanti del nomadismo erotico continuano a creare vittime. Questo è un film delle 2000 di Gabriele Muccino, L'ultimo bacio. Stefano Accorsi sta per sposarsi con Giovanna a mezzogiorno, ma ahimè ha un ultimo fuoco amoroso, ma non riesce a nasconderlo. Lo scopre immediatamente, sentite, si sente lo squillo del cellulare proprio nel momento del red rationem in cui lui compie un altro degli errori che gli esperti manualisti di queste tecniche assolutamente sconsigliano, ammettere. Lui ammette di aver dato un ultimo bacio, poi in realtà di ben altro si trattava. Dice chi si intende di queste cose che anche se colti in flagranza non bisogna mai ammettere l'evidenza, sempre negare, negare per principio. Altra circostanza moderna che entra in gioco è quella del telefonino. Il telefonino che squilla, il telefonino che avverte, il telefonino che messaggia, ahimè, è il più grande ruffiano delle relazioni clandestine. Un telefono cellulare velocizza l'intimità fra due esseri umani che non si conoscono. Attraverso uno scambio di SMS si bruciano le tappe, non so, di 3 inviti a cena, 4 uscite di lavoro, 7 confidenze mano nella mano con il collega sulle proprie solitudini sentimentali. Quindi è pericolosissimo la frequentazione attraverso il telefonino. Ma se è uno strumento che accelera la possibilità di uscita dal seminato, allo stesso tempo lascia tracce indelebili dell'effrazione. Quindi noi nell'ultima parte di questa trasmissione avremo un tecnico che, proprio che vogliamo dare dei rudimenti tecnici, vi dirà come cancellare le prove o come scoprire le prove, a seconda vi troviate nella situazione di chi deve scoprire il passaggio clandestino o chi debba simularlo. Ma visto che abbiamo deciso di entrare subito nell'aspetto tecnico, ho in collegamento una persona che dovrebbe essere esperta perlomeno in questa tecnologia. È Valentina Gaia Rossi, buongiorno. Buongiorno. La sento un po' timida di voce, ma si rende conto della responsabilità che ha lei questa mattina? È grande. Sì, lei ha scritto un manuale, 100 modi per scoprire se ti tradisce o per non farsi smascherare. Quindi esatto. Il suo libro non ho avuto modo di leggerlo, ma non ne avrei bisogno. Io non sono un traditore e sono tranquillo, sereno, diciamo così, che è la ipocrita maniera che ognuno ha per difendersi. Però io immagino che lei potrà fare qualsiasi domanda e lei sarà documentatissima per rispondere. Innanzitutto, come ha accumulato queste sue esperienze, con una carriera di traditrice, di tradita o per altre derive professionali? No, in maniera molto più semplice, ascoltando le persone, parlando, leggendo articoli, sondaggi, interviste altrui, raccogliendo insomma di presi proprio dalle persone che lo fanno. Quindi lei può darci delle soluzioni. Innanzitutto, prima domanda, è vero ciò che ho detto in apertura, che l'uscita dal seminato comunque è un'attività che prima o poi, in maniera superficiale o compulsiva, tocca tutti? Beh sì, è molto frequente, anche solo l'idea, sì, prima o poi può per un motivo o per l'altro sfiorare, questo sicuramente. Poi non tutti lo fanno, però... La sento di intermittenza, dottoressa, o forse qualche... Vediamo un po', allora, magari se riusciamo a recuperare un po' la qualità di questa telefonata, perché la sento piuttosto fuggevole. Io vado avanti subito con alcuni esempi, perché già alcuni ascoltatori mi hanno dato testimonianza e prova che queste tecniche esistono e sfidano il logorio dei tempi. Una prima situazione piuttosto arcaica, piuttosto legata a mezzi empirici, ma probabilmente molto efficace, ci è stata data da un'ascoltatrice. Confidenze ricevute da una collega sposata che frequentava clandestinamente un amico di famiglia. Lo riceveva di solito il sabato mattina in casa, mentre il marito era in ufficio a fare gli straordinari. Per segnalare il via libera, appendeva il suo cappotto sul balcone a prendere aria e lui, zac, piombava come un falco. Nessuna telefonata imbarazzante, se mai il marito quella mattina non fosse uscito, solo il cappotto fuori. Vedo un desolante deserto nel monitor che dovrebbe segnalarmi le telefonate, quindi presuppongo che c'è un grande timore nel portare testimonianze, nel rendersi utile all'umanità. Non importa, andremo avanti uguale, avete sentito questa ascoltatrice, dimostra una tecnica arcaica, sembra quasi da film, sembra quasi da commedia dell'arte, il cappotto messo in esposizione per segnalare che il legittimo proprietario di questo cappotto non è presente, non è in casa, non c'è, non sa dove egli sia e quindi l'amante può accedere. Una nota legata all'aspetto strapaesano di questa tecnica è che il sabato questa signora si concedeva al proprio amante. Il sabato, il giorno canonico dell'accoppiamento coniugale, per lei era anche il giorno canonico dell'uscita dal seminato. Ma abbiamo recuperato la dottoressa Valentina Rossi? Sì. Adesso la sentiamo finalmente bene, quindi sì. Abbiamo possibilità di averla lei. Già avuto qualche primo assaggio. Il cappotto esposto alla finestra per segnalare la via libera. Esistono delle versioni più moderne della segnalazione che in quel momento il legittimo o la legittima proprietaria delle attività erotiche del soggetto in questione è fuori circolazione? Come si segnala oggi il fatto che c'è possibilità attraverso un SMS, attraverso altri metodi probabilmente più tecnologici? Beh, diciamo che ultimamente la tecnologia da una parte aiuta, dall'altra insomma riusciamo a coglierne tutti gli aspetti più negativi, perché se un tempo non c'erano telefoni cellulari che potevano squillare o portare un messaggio a ore sconvenienti, e le persone non avevano neanche la possibilità di sbirciare, di andare a curiosare tra i messaggi nella rubrica del proprio marito, della propria moglie, per testare magari un loro sospetto. Adesso tutto questo è possibile. Ecco, allora subito il primo consiglio tecnico: come si ovvia al fatto che noi lasciamo traccia delle nostre uscite dal seminato sul nostro telefono cellulare o sul nostro computer? Poi ho detto, parlerà il tecnico, ci dirà come cancellare queste tracce, ma esiste una possibilità più semplice e meno tecnologica? Non so, un doppio telefonino ad esempio? Secondo me può essere una possibilità, ma non del tutto efficace, perché... Breaking news. Una notizia flash battuta in questo istante dall'agenzia ANSA, così recita: Alitalia, compagnia aerea italiana, non ci sono condizioni. Questa è l'agenzia flash battuta appunto in questo momento dall'agenzia ANSA, che spiega che è arrivato a Palazzo Chigi intanto il commissario straordinario di Alitalia, Augusto Fantozzi. Nella sede della Presidenza del Consiglio si trovano per un incontro con il sottosegretario Gianni Letta e i vertici di CAI, Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, l'amministratore delegato di Banca Intesa, Corrado Passera. Ma non ci sarebbero più appunto condizioni per trattative? Ecco qui un'altra agenzia che spiega più diffusamente il flash che vi ho dato qualche istante fa. CAI prende atto, dopo 7 giorni di incontri, che non esistono le condizioni per proseguire le trattative, quanto annuncia un portavoce della società, spiegando che evidentemente non ci si rende conto della drammatica situazione di Alitalia e della necessità di profonda discontinuità rispetto al passato che il piano di salvataggio richiede. Dottoressa Valentina Rossa, siamo stati interrotti in una breaking news: non ci sono condizioni trattative per l'Alitalia, ma il fedifrago o la fedifraga colto in fatto ha margini di trattativa secondo lei? Subito è difficile, è molto difficile, perché inizialmente la persona colta sul fatto istintivamente nega. I manuali e gli esperti dicono che negare comunque è la migliore delle soluzioni, anche in caso di inequivocabile situazione. Io non sono totalmente d'accordo. No, dica che è interessante, aumentiamo a questa letteratura qualche dato in più. Nel senso che la negazione può essere proprio una risposta del proprio istinto di sopravvivenza. No, non è vero, non l'ho fatto. C'è da dire che poi a mente relativamente fredda di entrambi, secondo me non ha più senso negare, ma la cosa costruttiva è ammettere, e se si ha l'intenzione di continuare la relazione, a questo punto è giusto discuterne, cercare di capire il perché questa cosa possa essere successa. Sì, però non vorrei sconfinare. A questo punto noi dobbiamo dare regole, questo per mantenere la relazione, ma per continuare a compiere l'opera di tradimento, naturalmente poi bisognerà recuperare il rapporto se uno ci tiene, e non è detto che tradire sia un'attività buona, non voglio dire con questo la giustifico, ma comunque lo si fa e devo dare delle indicazioni. Lei dice che negare non è mai la forma migliore, ma invece probabilmente può essere utile, non so, diluire, dire soltanto un amico, soltanto un'amica, non credere quello che è, o la terribile frase è soltanto una questione di sesso, non c'è sentimento. Ecco, fra queste cose qual è la meno grave e quella che impossibilita meno il poter continuare la propria opera? Beh, sicuramente il fatto di smussare l'evidenza di quello che viene scoperto è molto utile, perché comunque sia si può ridimensionare la questione, cercare di farla vedere per quello che alla fine non è, però le si può dare una connotazione meno grave. Abbiamo al telefono Anna, buongiorno. Buongiorno. Io le sono grato perché la prima persona ha avuto coraggio di telefonare, perché sembra che tutti in questo momento sono diventati Santa Maria Goretti o qualche asceta. Di questo argomento non se ne parla, già mi dicono, ah, cosa dici mai? Io non sto istigando al tradimento. No. Lei mi ha capito. Allora, il tradimento esiste. Lei ha delle regole d'oro, sentite dire naturalmente, non di sua esperienza. Sentite dire nel senso che, dunque, io ritengo che le corna, tanto dire cornuto è la cosa peggiore. Lo vabbè, lasciamo parte dire di un vecchio lessico. In realtà, le corna sono un elemento, io trovo molto importante, sono una cartina di tornasole in qualunque rapporto, tanto più è lungo. Sì, ma scusi Anna, non mi interessa capire cosa sono, voglio capire come si fanno senza creare danni. Allora, dunque, si fanno innanzitutto se uno è preparato a farle. Ecco, ci vuole un po' di tecnica e siamo qui per dare appunto dei consigli. No, allora io dico, bisogna essere preparati, cioè bisogna, molto spesso, noi non siamo preparati. Invece se uno è preparato, cioè nel senso che le pensa... E come si studia, come si studia? Sono andata anche dal parroco. Era espertissimo di corna. No, dunque sono andata dalla parroco, con tutti i peccati. Quando loro fanno la preparazione prematrimoniale, sì, ho detto, ma voi parlate delle corna, perché insomma quelle più o meno tutti ci abbiamo a che fare prima o poi, no? Bravo. Allora, se uno è preparato, le gestisce anche meglio. Ma lei dice subirle o farle? No, subirle, farle, immaginarle, qualunque cosa. Quindi mi dà ragione, mi scusi Anna, che esiste una manualistica e comunque va conosciuta, anche se poi uno si mantiene rettamente sempre sulla strada maestra, o sbaglio? No, ma se uno pensa se uno è improvvisamente colto da questo elemento, cioè nel senso le faccio o non le faccio, oppure non sa come comportarsi. È chiaro che le gestisce male perché emotivamente poi si fa scoprire pure, quindi già... Ecco, ma come si impara, Anna, vorrei capire, come si impara, dove si studia, se non attraverso trasmissioni di servizio come stiamo facendo noi? Allora, ci sono persone che sono portate, quindi diciamo naturalmente... Ci dia qualche tecnica, tanto per capirci. Bisogna essere bravi a nasconderle? No, bisogna essere degli intellettuali. E secondo lei solo gli intellettuali tradiscono? Beh, hanno più strumenti per poter... Questo ha ragione. Le persone semplici si tradiscono. No, non dico questo. No, sì, le persone semplici sono più... No, insomma, sento una cosa, noi parliamo solo di teoria, ma le tracce fisiche del tradimento sono nascondibili? Il cellulare è una disdetta. Perfetto, a disdetta. Quindi quello deve essere eliminato. Comunque prendere qui alcuni... Insomma, bisogna anche lì... Come si fa a rientrare a casa dopo che sei stati con l'altra persona e non farlo capire... Ma intanto le corna andrebbero sia agite che fatte, insomma, da subito, insomma, che prima si fanno è meglio. Cioè, non starà perdendo. Impara. Allora, senta Anna, facciamo una cosa, visto che devo dare la linea un attimo. La teniamo in linea perché mi sembra che lei sia abbastanza interessante come documentazione, quindi la chiamiamo fra un istante, intanto chiamate l'824-0024, non fate che sia Anna l'unica persona che ha avuto il coraggio questa mattina di toccare questo spinoso problema. A tra un istante. Melog 2.0. Vi do ragione di qualche sms che ci è arrivato, il numero per mandare sms 349-238-6666, 349-238-6666. Cominciano a fioccare i consigli, un'ottima cosa sarebbe, dice un amico naturalmente a Simone, avere due numeri di cellulare, poi un altro dice mai pagare con carta di credito. Poi c'è naturalmente la levata di scudi di coloro che devono mostrare la loro rettitudine, di cui siamo contenti, fa onore loro e fa onore alla società. Gianluca, hai toppato, sono sposato da 10 anni di matrimonio, mai avuto tradimenti. Siamo felici, siamo contenti, ci fa piacere, ma non tutti hanno questa fortuna. Poi un'altra persona mi scrive dicendo, ah, ma che radio è questa? C'è possibilità che nella coppia non ci sia tradimento? Certo c'è possibilità, sicuramente, un'altissima possibilità. Ma noi vogliamo semplicemente capire quali sono le tecniche del come si fa, quando si fa e chi lo fa. Poi mi scrive Valentina su Facebook e chiede come si fa a togliersi di dosso i profumi dell'amante quando si torna a casa. Anna, che abbiamo interrotto nella prima parte, lei avrebbe qualche consiglio da dare? Esiste uno sgrassante degli odori, dei profumi per non lasciare tracce? Anna? Sì, Sì, a me sta dicendo. Sì, dunque. Una domanda, non so, magari lei come no, donna no, di casa. Insomma, non, è difficile. I profumi, guardi, questo bisogna essere proprio molto. Insomma, una donna che sa che va con uno o viceversa, insomma, si devono organizzare su questo fatto. Cioè, non mettersi profumo. No, vabbè, quello è il minimo. Ma il discorso, scusi, che e altre, no, no, scusi, altre non mettere profumo, altre maniere per non lasciarsi tracce addosso. Secondo lei, non lo so, ci sto pensando anch'io. Ma tracce addosso per l'uomo o per la donna? Entrambi, ma non siamo al di sopra di questa sottile differenza. Beh, insomma, le donne in genere non mettono profumi molto forti. Devono anche saper scegliere le donne, no? Quando... Un amico mio, vecchio vivere, ormai morto, che faceva il commesso viaggiatore negli anni 60, diceva, bisogna sempre comprarsi due camicie sempre uguali. Si esce con una camicia pulita, l'altra si porta nella valigetta, si torna a casa con la camicia pulita e nessuno si accorge che tu in realtà quella camicia l'hai levemente stazzonata. Esiste per la donna un sistema simile? Ma il discorso è questo, che essendo un fatto assolutamente fisiologico, l'incontro con le corna... Certo, alla fine che... è quello, è inutile girarci intorno. Ma la cosa importante, la cosa fondamentale, invece tutte le viviamo come un dramma, invece fanno parte integrante di un rapporto e quindi il profumo, anche se viene scoperto, è un modo per mettere in moto una dinamica all'interno del rapporto che lo deve mettere alla prova anche. Lei sta dicendo una cosa molto sottile, non so se tutti la coglieranno. Sono quei piccoli segnali che possono ridare vita a un rapporto? Ma anche, mettono in discussione, cioè, a parte che è bene anche il fatto di confessare queste cose, assolutamente no, né dalla parte dell'uomo né dalla parte della donna. Sì, però si capisce, quando c'è qualche storia in giro, improvvisamente il partner cambia pettinatura, l'uomo si veste da fighetto, esatto. Va in palestra, è vero? Benissimo, sì. Quindi è questo. Benissimo. Anna, la teniamo a mente come esperta disincantata di fatti la vita, la salutiamo, però andiamo a un vero esperto che è Andrea da Brescia. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ecco, finalmente un tecnico, spero che non si dilungherà in aspetti di tipo sociale o moralista. Lei fa l'investigatore privato? Esatto. Allora, comincio a dire, lei naturalmente sta dall'altra parte, quello che deve scoprire. Sì. Quali sono i segnali più evidenti del tradimento? Ma i segnali più evidenti, quando è l'uomo a aver trovato la dolce pulcella, chiaramente è un cambiamento evidente nei modi comportamentali, quindi fa 200 docce al giorno, si cambia completamente il look, quindi ringiovanimento del look, decide di andare in palestra, quant'altro, quando sono delle situazioni, delle storie, quando invece sono delle cose occasionali, chiaro che è un pochino più difficile. Per la donna invece? La donna, quali sono i segnali esteriori che gatta ci cova? Ma esteriori forse anche quello, però soprattutto c'è una notevole differenza nel comportamento nei confronti dell'uomo, quindi del marito. Quindi si nega al debito coniugale, però anche proprio dal punto di vista del comportamento di tutti i giorni, nella giornata tipo è più scontrosa, ha la testa da un'altra parte, anche perché la donna, a diversità dell'uomo, quando arriva a fare una cosa del genere, in genere la si perde. L'uomo riesce a mantenere le due cose distinte, quindi la storia di sesso e la famiglia. La donna è più difficile. Però diciamo che ci sono professionisti anche in questo campo. Sì, senz'altro. Ecco, i segni fisici, esistono delle maniere per cancellarli? Ma i segni fisici è chiaro che bisognerebbe andare a monte, quindi bisognerebbe fare in maniera che non ne restino, perché il succhiotto piuttosto che il graffio è chiaro che si fa fatica. Però so di gente che ha fatto alcune centinaia di chilometri con i finestrini abbassati per tornare a casa senza avere l'odore della partner o il profumo della partner, questo lo so per certo. Altre tracce che possono rimanere? Capelli, bigliettini? Capelli, quello lì è un classico. Io so addirittura di una, le racconto questa, la moglie va in macchina con il marito, trovano un golfino di dietro nascosto sotto il sedile, la moglie si arrabbia come, tra l'altro un golfino di cashmere anche bello, si arrabbia come una biscia perché convinta che il marito avesse tradita, lo butta fuori dalla macchina in corsa, si scopre che invece era della suocera, che il marito il giorno prima l'aveva portata in giro e quindi gli ha buttato via un golfino di cashmere che invece pensava che fosse dell'amante, invece era della suocera. Allora, dunque, queste cose. Però bisogna stare attenti allora anche ai falsi segnali. Adesso c'è un'altra questione che vorrei aprire, se vuole rimanga in ascolto, è i luoghi. Prima abbiamo visto sommariamente alcune tracce, poi, come ho già detto, vi racconteremo come cancellare le tracce tecnologiche, l'alone digitale che rimane di un tradimento, ma esiste anche il luogo del tradimento. Ora, dopo della tanto parlata decreto Carfagna, probabilmente l'amore mercenario sarà debellato alle strade d'Italia, ma rimarrà comunque una sorta di mappa dei luoghi clandestini dell'amore. L'albergo, dove si va a consumare? Chi non ha una seconda casa, chi non ha amici compiacenti, chi non va in macchina, deve andare in albergo e si pongono alcuni problemi. Abbiamo fatto con Fabrizio Intonti, che insieme a Paolo Corleone mi aiuta in questo difficile cammino, una sorta di mappatura dei possibili luoghi dell'amore in Italia, in varie città d'Italia, ponendo due domande. Prima domanda, è possibile avere una stanza d'albergo a ore? Un novellino probabilmente spaventato da questo tipo di possibilità. Abbiamo cominciato a chiedere a un albergo di Torino. Per noi, guardi, la stanza va da oggi a mezzogiorno fino a domani mattina alle 10. Una volta che il pomeriggio è occupata, se arriva qualcun altro io non posso affittarla, poi la notte non chiudiamo, per me è uguale, non cambia niente. Nessun problema a Torino, ma passiamo a Milano. Lei interessava una camera doppia per tutta la notte, compresa la prima colazione, o era interessato ad una camera con tariffa da motel a ore? Sì, abbiamo anche camere tema, appunto, che diamo solitamente per chi si ferma per qualche ora. Quelle hanno una tariffa oraria e vengono 45 euro fino a 6 ore. Poi uno, se si ferma di più, la cifra aumenta. Naturalmente Fausto Papetti non poteva mancare, vero strumento tecnologico degli anni 70 per la conquista amorosa che girava ininterrottamente nelle cassette stereo 8. A Milano avete visto, non ci sono problemi, addirittura ci sono le stanze a tema. Stanze a tema significa stanza africana, stanza egiziana, idromassaggio thailandese, insomma una sorta di Disneyland del fedifrago. Andiamo avanti a Napoli. Certamente non paga la camera per intero. Mi trova a mezzogiorno qui e definiamo, ma stia tranquillo, sicuramente pagherà la metà o qualcosa in più della metà, più o meno, vedremo. A Napoli ci si mette d'accordo a seconda della durata della prestazione, c'è una sorta di tassametro del tradimento, in base a quello pagate. Invece a Catania cosa succede? Dopodomani io la camera gliela posso dare nel pomeriggio, cioè non dorme qui? D'accordo. Solo per un paio d'ore, se non si ferma qui, 50. Un paio d'ore, vedete, un paio d'ore è proprio il minimo indispensabile, considerati i preliminari e la fase di sgrassamento delle tracce fisiologiche. Abbiamo fatto poi un'altra domanda, molto più delicata, l'identità. Noi lasciamo una traccia, andiamo in albergo, bisogna giustificare che si va in due non sposati in una stanza d'albergo. Quindi la domanda che ha fatto Fabrizio Intonti, ma potrei per la signora ottenere riservatezza? Così ci hanno risposto a Torino. Basta che a me mi dà il documento, poi il resto a me non interessa. Io devo solo registrarle e basta, altrimenti se arriva un controllo io mi prendo la multa. Mi fanno 3.000 euro di multa se arrivano e non trovano gente senza registrata nelle camere. Qualcuno che rischia, ma io non voglio rischiare perché io voglio lavorare. A Torino non ci sono santi, si registra anche la donna, quindi la coppia clandestina deve essere registrata perché si rischiano 3.000 euro di multa. Sentiamo a Milano. I documenti noi li chiediamo entrambi, tutte e due, perché siamo obbligati a chiedere i documenti. Comunque la legge sulla privacy la conosciamo anche noi, può star certo che non vanno diffusi i dati, però per le normative del settore alberghiero noi siamo costretti a chiedere entrambi i documenti. Napoli. Da noi la trova, tranquillamente. La signora è maggiorenne. Non si preoccupi, troviamo sicuramente tutti gli accordi possibili. Quindi quando viene mi troverà domani e mi ricorda che abbiamo già parlato a telefono, non avrà bisogno di aggiungere molto altro. Sia tranquilla. Massimo anonimato a Napoli, purché la signora sia maggiorenne, ma se non dà il documento, come fanno a sapere sia maggiorenne, si accontenterà del colpo d'occhio. A Catania. Io ho bisogno del documento di chi è della persona che prende la camera. Suo documento comunque. Ma anche quello della signora? Ma possiamo evitarlo eventualmente, però il suo sicuramente sì. Lo dico per riservare, per preservare l'integrità di Intonti, era una cavia, io avevo suggerito la domanda, quindi state tranquilli. Comunque a Catania non ci sono problemi, andate tranquilli sul liscio, dopo le informazioni sul traffico entreremo nel vivo dei consigli. Melog 2.0. Mi dice Luciano, SMS al numero 349-238-6666, costa tantissimo avere l'amante, 50 euro la camera, 50 la cena, 10 per il Viagra, pidocchioso e anche poco efficiente, non è un problema che ci riguarda, meglio utilizzare alberghi business, sono più anonimi dei motel, mi dice un'altra persona, insiste Valentina, dice ma non ci sono soltanto i profumi, ma gli odori naturali come si cancellano, insomma un'infinità di domande, 824-0024, vediamo se Marco riesce ad aiutarci con qualche consiglio tecnico. Marco, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, questa ascoltatrice che dice gli odori naturali come si cancellano, lei ha qualche esperienza, sentita da amici naturalmente, su queste tecniche di riverginamento della fedeltà coniugale? Ma guarda, no, più che sentita da amici io ti posso dire la mia esperienza. Ah beh, no, no, io lo dicevo per salvarti la vita, però se vuoi va bene, dimmi la tua esperienza. Guarda, io sono sposato e ho diversi bambini, sono sposato da più di 10 anni, sì. E ho iniziato a trovare mia moglie da 4 anni. Hai deciso che oggi si rompa il tuo matrimonio, va bene, dai, vai avanti. No, ma su questo del cancellare tracce sono un po' facilitato, perché il problema non è tanto non farsi scoprire dalla moglie, quanto evitare che una amante un po' incazzata ti piombi nella tua sfera familiare e rovini tutto, no? Quindi bisogna fare una scelta accurata anche degli amanti. Un po' come Attrazione fatale, quel film di Michael Douglas. Esatto, è il rischio che tutti si corre. Esatto. Esistesse un telecomando con il pulsante per spegnere la persona, non vuol dire uomo, donna, animale che sia, quando è terminata la relazione sarebbe preferibile, ma ci sono degli strascichi, quindi eliminare tracce. Allora, diciamo, eliminare tracce per me non è stato mai un problema. Ovviamente avere due cellulari, quello mi sembra stato detto in trasmissione, uno ufficiale, quello è il tuo che non darai mai alle tue amanti, e l'altro quello delle tue amanti. Quindi basta spegnere, spegnerne basta uno e uno sta tranquillo. Spegnere silenzioso, quello che è, basta che non te lo fai trovare dalla moglie. E l'altra cosa, questo sono stato facilitato dal mio lavoro, io non ho mai avuto amanti nell'ambito delle mie amicizie, di quelle di mia moglie, o anche nell'ambito del lavoro. Con quindi fuori del giro? Assolutamente, ma fuori proprio dalla città, perché io per lavoro sto quasi sempre fuori città. Qual è la distanza minima per stare tranquilli, per avere un rapporto clandestino? L'Italia è grande, quindi io vivo in una città e la vado a lavorare 600 km al lago. Quindi un Roma-Milano minimo? Esatto, ma mi... O Roma-Catania, che ne so. Ecco. Quando mi sono, mettiamo che vivo a Roma, quando mi sono ritrovato, mi è successo con qualche amante a Roma, è sempre stato un casino da gestire, questo sicuramente. Qui non vorrei dare un taglio maschilista a questa trasmissione, anche se poi non me ne importa nulla. Il problema naturalmente l'avrà avuto anche l'altra persona, immagino, perché sarei andato anche con donne sposate. Come no? Ah, vabbè, quella è la cosa migliore, ovviamente. Ecco, loro come perché riescono a dissimulare? Perché lo stesso che perdi te. Ecco, allora, perfetto. Dimmi quali erano le tecniche che usa la donna sposata per tornare a casa tranquilla e serena. Perché l'uomo è un pochino più facile, mi muovo per lavoro, ho sport, devo andare a seguire la partita. La donna come si organizza? Poi vediamo se donne vanno a vedere. Esce a cena con una sua amica che poi ovviamente è consenziente. Tiene il gioco. L'orario del tradimento, quali sono gli orari migliori? Tu dici cena, ma la cena è scontato. Non si tradisce, ma non so, la mattina... Guarda, può essere pure un pomeriggio, vado dal parrucchiere. I luoghi dell'amore, noi abbiamo scandagliato... Allora, ho sentito questa cosa degli alberghi, io ti posso dire come faccio io. Io normalmente lo porto negli alberghi che conosco bene, quindi io non ho mai fatto registrare una donna che è stata con me. Conoscendo, grazie. Ma se non conosci, alla fine una cosa è lasciargli il documento, una cosa è farla registrare. Puoi sempre lasciare una mancia a quello che sta là, il portiere, quello che è, e lasciare il documento della ragazza senza farla registrare. D'altronde questo lo fanno tutti quelli che si fanno venire in albergo le cosiddette escort. La escort volta arriva lascia la cosiddetta, scusami, esiste ancora la cosiddetta coperta viva che si chiede al metro. Non volevo usare un termine. No, vabbè, ma adesso si dice escort. È un tecnicismo. Una volta i camionisti sul raccordo dicevano c'è la coperta viva, sì, la coperta, sì. La coperta. Esatto. Vabbè. Quindi è una cosa normalissima, perché poi queste informazioni vengono, se non sbaglio, trasmesse al Ministero dell'Interno, sono sempre informazioni che appunto un investigatore privato potrebbe reperire facilmente, secondo me. Certo, naturalmente. Poi sarebbe più difficile, comunque anche su quello esistono larghi margini. Sull'aspetto tecnologico, che invece è molto più interessante, intanto ringrazio Marco e saluto, abbiamo al telefono un esperto, abbiamo tenuto in coda perché è l'aspetto più moderno e più legato comunque alla possibilità sia di essere scoperti sia di mantenere tranquillamente più relazioni in piedi. Abbiamo al telefono il dottor Stefano Zanero, che è ricercatore in ingegneria informatica al Politecnico di Milano. Dottor Zanero, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, mi interessa poche ma precise cognizioni tecniche. Come si rivergina un telefonino? Allora, il telefono è proprio un animale molto difficile da trattare, perché è un oggetto che abbiamo poco controllo. In realtà, se ci pensi, mentre sul computer noi installiamo e disinstalliamo cose, sul telefonino anche di nuova generazione, a parte qualche programmino, noi non abbiamo un grande controllo su quello che succede. È sufficiente cancellare l'SMS? No, assolutamente, anzi questa è proprio una cosa che tipicamente si fa nel caso di investigazioni, diciamo, non solo per avventure extraconiugali, ma di investigazioni criminali o civili. Si possono leggere messaggi cancellati sia dalla memoria del telefonino che dalla SIM card. Un consiglio preliminare, che però non risolve tutto, è che salvare i messaggi sulla SIM card è un suicidio, perché è la cosa più facile da analizzare, quindi la memoria del cellulare è forse leggermente più difficile. Allora, teniamo da conto che se il cellulare rimane incustodito, ogni partner almeno una volta capita che abbia l'occasione di guardare quello che c'è dentro. Quindi, normalmente, la prima regola sarebbe comunque intanto di cancellare, si dà una prima pulita. Assolutamente, però se questo cellulare viene portato da un investigatore che abbia le capacità tecniche per farlo, e non è una cosa difficile perché ci sono dei programmi fatti apposta per analizzare i cellulari, è possibile recuperare anche messaggi. Quindi forse la cosa migliore è, come credo si accennasse prima, avere il secondo cellulare, che invece non cade mai nelle mani della persona che potrebbe essere insospettita o farlo analizzare. Ecco, questo forse potrebbe essere la prima cosa. Diventa più facile invece richiede più cautela il discorso del computer. Ecco, email, messaggistica, chat. La chat è uno degli strumenti, un acceleratore della passione terrificante. È sufficiente mettere l'informazione di non tenere, tenere il log, cioè il file dove viene registrata la chat? In un computer, una persona qualsiasi, senza strumenti sofisticati, immagino con Google Desktop, questi programmini che tutti hanno, è possibile che ritrovi le tracce di navigazioni clandestine e quindi risalga il filo dell'adulterio? Assolutamente sì. Innanzitutto non registrare i log delle chat, questo è già un buon punto di partenza, perché quello che non viene registrato è già distrutto in partenza, no? Però rimangono per esempio delle tracce, le tracce della connessione ai siti web, perché i nostri programmi browser, nell'intento di essere utili, registrano il log, la cosiddetta history di tutti gli accessi fatti quindi, ai siti web. Quindi proprio un consiglio finale: se usate strumenti informatici, usate anche un linguaggio cifrato. Chiamatevi ragioniere, chiamatevi signorina, chiamatevi amico e collega, ma sul computer e sul telefonino resta tutto perfettamente inciso. Visto che il problema sembra comincia a piacervi, forse ne riparleremo a lunedì. Radio 24. La passione si sente. Melog 2.0.